Misericordia Domini, in eterno cantabo. Misericordia Domini, in eterno cantabo. In generazione, in generazione, annunciavo veritate tua, minore meu. Misericordia Domini, in eterno cantavo. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordias Domini.